24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Vorrei ricordargli che noi le elezioni le abbiamo vinte due volte nel corso di questi anni e abbiamo portato la sinistra italiana per la prima volta nella sua storia al governo del paese. Quindi Renzi è ignorante da questo punto di vista. Mente, è spiritoso, diciamo, è brillante, ma è superficiale. Avete capito come c'ha il dente avvelenato Massimo D'Alema? Renzi è ignorante, mente, è superficiale, spiritoso, ma mente. Secondo il Corriere della Sera, in un retroscena, Massimo D'Alema avrebbe detto: a me piace quando Marx diceva la lotta è la felicità e io non ci rinuncio. Avete capito, Massimo D'Alema. Va bene, questo è 24 mattino e siamo alle 6:32 minuti con Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino che tiene alta la penna nera, Peter Bescapè in regia, sempre lì presente, il nostro Parlamento che può aprire. Nicole Minetti c'è, tutti il caffè volentieri a tutti quanti. Oggi avrei bisogno di un caffè triplo se non quadruplo. Vabbè, voglio salutare subito Alessandro Giglioli. Ciao Alessandro, come va? Buongiorno, ciao. L'espresso, ma anche il suo piovo norane. Così come voglio salutare Vincino, grandissimo Vincino, com'è, come va? Bene. Tutto a posto. Avete sentito come è pronto a combattere Massimo D'Alema? Lo sono visto ieri mattina. Ci figurarsi se si perde qualcosa. Era organizzato, cioè Greco gli fa vedere quello che aveva detto Renzi il giorno prima. Greco è il conduttore di Agorà, sì. E più lui si arrabbiava, e più lui era proprio... dava in escandescenze quasi, proprio con la precisione, con la sua precisione. Sì, era sì. Proprio... imbestialito. Sì, perché perché poi chi conosce D'Alema capisce che quando dà queste battute è ignorante, lo dà sempre con questa calma, con questa finta pacatezza, ma in realtà Vincino vorrebbe dire: lo strozzo con le mie mani, no? Più o meno. Assolutamente. E poi fa un po' in realtà un autoritratto suo in parte. Parla di se stesso, il classico transfer. Parla di se stesso, perché vedi, lui in realtà lui gli piace dire queste cose per 10 minuti, poi è incostante. Lui come direttore, per esempio, quando dirigeva l'unità, si annoiava, stava quasi tutto il tempo a giocare con quei giochettini. Mamma mia. Mamma mia, ma c'è una roba. Testimonianze dirette, figurarsi se Vincino non conosceva anche le testimonianze dirette di Massimo D'Alema. Non so, tu Giglioli sei appassionato o ti appassiona di più il dibattito o gli insulti all'interno del centrodestra? Vediamo da 0 a 10. Centrosinistra da 0 a 10? Allora, dunque, D'Alema, l'altro giorno appunto ha attaccato Renzi e Renzi ha vinto. Ieri sera ha difeso la cancellieria. La giornata andrà, cioè l'epitaffio per la cancellieri, quindi D'Alema non si rende conto che qualunque cosa faccia avviene ormai il suo contrario, è convinto ancora di essere da tanti anni alla rovescia, poraccio. Da tanti anni addirittura. Vabbè, allora ve lo faccio sentire, così ancora sentite anche combatteremo Renzi, ieri era ad Agorà, Massimo D'Alema. Io non lo sottovaluto e so quanto lui è forte, innanzitutto nel sistema dei media, nei sostegni da Briatore a De Benedetti, diciamo, è un parterre de roi, anche c'è anche qualche palafreniere come in tutti i parterre de roi, diciamo. Ha un sostegno incredibile, diciamo. Però lui non sottovaluti gli altri, noi combatteremo fino all'ultimo voto. Eccolo lì, combatteremo. Renzi l'ha creato lui, altro che De Benedetti, altro che Briatore. Renzi l'ha creato lui, cioè sì? È stato l'establishment del PD che si è chiuso in se stesso, nella propria autoreferenzialità. Tu dici. Quando non ci si autoriforma, arriva qualcuno da fuori prima o poi e fa esplodere la pressione. Beh, da lui fuori. È il principale sponsor di Renzi, è stato lui. Ma però qualcuno da fuori, qualcuno da dentro, anche da dentro. Beh, vabbè, dai, Renzi fondamentalmente da fuori dell'establishment, mi riferisco a quell'inner circle, no? di cui quella confederazione di correnti che andava da Persani a Franceschini, da Fioroni a Finocchiaro, che ha tenuto in ostaggio il PD, l'ha portato dove sappiamo, poi che bella scoperta che viene qualcuno e prima o poi fa esplodere questa bolla. E lui è stato il primo creatore di Renzi. Lui il primo creatore. Non farebbe arrivato Renzi. Insomma, qua stiamo sistemando D'Alema, caro Vincino, hai visto? Lui pensava di sistemare Renzi, qua gli stiamo dando pan per focaccia, qua via D'Alema, via. Sistemato rotta lui da anni già, D'Alema. D'Alema, vabbè. Ha ancora una capacità di influenza, non so, avrà una settantina di deputati, sì. 15 senatori, un amministratore di fondazione, che come dire, un potere reale enorme, non è che... un po' di uomini giusti. Sì, ma vi rendete conto? Sono 5 minuti di trasmissione e parliamo di D'Alema. Non mi avete ancora fermato. Non mi avete ancora fermato. Volevo vedere fin quando andavamo avanti. Sai la prima vignetta quando io l'ho fatta? Nel 77. 77, te la ricordi la prima vignetta? Esattamente, D'Alema. Che D'Alema, ci sono due D'Alema, che esprimete, lui è sempre identico a se stesso, D'Alema da giovane e D'Alema da vecchio, ed è preciso identico. Cioè già allora nel 77 era vecchissimo, perché la vecchia politica, cioè lui discende da Togliatti direttamente, dai Lombi di Togliatti via, via. Ma sai, un mio amico negli anni 80, chiudiamo veramente. Siamo a 7 minuti su D'Alema. Un mio amico negli anni 80 diceva: se mio nonno partigiano avesse incontrato D'Alema in montagna, lo avrebbe fucilato senza chiedergli da che parte stava. Addirittura. Vabbè, insomma, D'Alema non metterà mai piede a 24 mattino, credo. Partirà subito un invito. Oggi lo invito. Tra l'altro, provate a invitare D'Alema per parlare. No, alle 6:30 che No, alle 6:30 figurarsi, ma anche alle 8:15, insomma, più agevolmente, quando vuole, anche alle 12. Viene a casa nostra, però parlasse. Adesso però per par condicio sulle mummie del passato 7 minuti a parlare male di Veltroni. Veltroni non è in Africa, non si è mai capito questa storia dell'Africa, Veltroni. Questo è il vero mistero proprio della politica. Veltroni che annunciò vado in Africa, poi è uscito un po' dalle ogni tanto fa delle interviste, ma in Africa non ci ha mai messo piede, più o meno, insomma. Il caso Cancellieri tiene ancora banco. Politicamente parlando, anche qui tutti i titoli sono il PD ribolle, il PD spaccato, il PD diviso. Allora, ieri la Cancellieri pare che abbia messo un punto a suo favore, cioè non è indagata da Torino, ma questo non risolve nulla, perché tutti i giornali raccontano che se oggi Letta non interviene all'assemblea del PD a dire c'è sostegno pieno, dobbiamo convintamente sostenerla, questa adesso è pronta lei a fare il passo indietro, Giglioli, a dire allora sapete che c'è, se sono dimezzata sono io che vi mollo. Vabbè, lei ha fatto, come dire, dopo la mala parata ha fatto anche un po' l'arrogantella, no? O c'è un sostegno completo su di me oppure me ne vado. Il sostegno completo sta cippa, perché voglio dire, Renzi ha detto che si sarebbe dovuta dimettere, Civati con il suo pure 10%, insieme fanno già il 60-70% del PD della base, il nuovo segretario Pectore che dice che se ne deve andare. Cooperlo ha usato il linguaggio che appartiene alla sua tradizione, cioè ha detto valuti l'opportunità, che non è propriamente, come dire, una iena, tradizione di D'Alema. Tradizione anche un po' democristiana. Non mi sembra che ci sia stato questo. Sì, insomma, cioè sembra. Della signora, no, io ho detto. La cosa che Torino non l'ha indagata è il problema, che è un problema del PD, perché il PD sperava che la procura di Torino gli togliesse le castagne dal fuoco. È indagata, signora, indagata. Ma invece devono decidere loro, cioè devono fare una cosa inaudita, prendere una decisione politica. Incredibile, Vincino, te l'immagini oggi, si svegliano, no, dobbiamo decidere adesso sul caso Cancellieri, porca di quella. Ma qua il problema con questi candidati che ragionano così, cioè Letta è in estrema minoranza in tutto, ma oggi lo sarà tra un mese, tra 20 giorni, cioè non... Io lo vedo male questo governo qua con tutti i loro ministri, li vedo molto male. Li vedi molto male, Ma sì, perché io sono Renzi, vinco l'elezione, ma mi devo sopportare questo governicchio qua così, con tuo pieno di tutti questi... Ma facciamo un pronostico, perché pare che se tutto va come, non so, decadenza di Berlusconi, Berlusconi già allora dice basta, vado all'opposizione, mette Forza Italia all'opposizione, diventa Renzi segretario del PD e qualcuno dice Letta non arriva a mangiare veramente il panettone, o se lo mangiano poi rimane là sul grozzo poco. Tu qua Vincenzo ci avevi detto non arriva a mangiare il panettone, forse. Vabbè, che vediamo ora, poi non è che sai siamo, siamo. Poi ci sbagliamo in generale, ci sbagliamo sempre, sì, questo è ovvio, questo è sempre. Sempre Giglioli, ti appassiona di più il centrodestra? Allora attenzione, pare che Berlusconi stia in persona scegliendo le persone che devono andare in TV per la nuova Forza Italia. L'ha promosso il sindaco di Pavia Alessandro Cattaneo. Sta gestendo tutto poi Deborah Bergamini, deputata che insomma si occupa anche di comunicazione eccetera. Ti appassiona Giglioli questo scontro al calor bianco nel centrodestra? Centrodestra, poi anche queste parole, ma non ce n'è più centrodestra. In Italia era Monti, il centrodestra dal punto di vista programmatico, politico. Quello era un partito personale, poi guarda, l'ha detto uno come Feltri, che non è esattamente il mio riferimento culturale e politico, però l'ha detto bene ieri. Fondamentalmente la divisione è fra chi scommette sul fatto che Berlusconi abbia ancora un po' di vita politica davanti e quindi scommette il proprio futuro, la propria cadrega su quello, e chi invece pensa che sia qua a seguito della decadenza e quindi investe su altro. Oggi si riscopre con le radici milanesi, la cadrega e la sedia. Vabbè, io sono un milanese, come dire, immigrato a Roma da 10 anni, ma pur sempre milanese. Detto questo, chiedo scusa se ho usato parole diventate. Quindi è un investimento personale, è un investimento di carriera, ecco. Dopodiché quello che vedremo è semplicemente che i cosiddetti moderati, cioè quelli che si autodefinivano moderati fino a pochi mesi fa, e cioè il nuovo Forza Italia, diventerà fondamentalmente qualcosa di simile a un partito populista della destra europea, una cosa dalla Le Pen, cioè, gli altri diventeranno democratici. 10 minuti di analisi di centro-sinistra e centro-destra, potete tornare tutti a dormire comodamente, cari italiani. Vicino alle Pen io vedo Grillo con 5 Stelle, cioè in questa Europa eccola, Vincino parte contro il Movimento 5 Stelle con i 5 Stelle, che è lui proprio a capo. Spara zero, l'alba dorata italiana, l'alba questa la dovete ridicela. Lui è anticomunista come Grillo, se ne trovano Scusa Vincino, questa subito da twittare, dobbiamo farlo massacrare da quel Movimento 5 Stelle. Vincino, dillo bene, Vincino. È l'alba dorata italiana, quella Grillo è il più anticomunista che c'è in realtà. Grillo è l'alba dorata italiana, forza, avanti, tutti di 5 Stelle, tutti contro Vincino Web. Tanto questo diciamo, è satira e via. Vincino l'ha detta male, però il concetto di fondo che l'antieuropeismo... Aspetta Giglioli, almeno lui dice che è satira, tu invece vuoi argomentare questa cosa. Prima la dicono a Grotto, ma è satira. Esatto, lui poi si difende così, ma no, io faccio satira. Stamattina gli rigano la macchina e deciso che è satira. Vabbè, invece tu Giglioli ti stai addentrando in un'argomentazione, stai attento perché poi tu sei un analista. Vabbè, ma è piuttosto semplice l'argomentazione, cioè che esista un malumore, un disagio non infondato, tutt'altro che infondato. Perché i tecnocrati europei mi sembra evidente dalla Francia all'Austria, dall'Inghilterra. La Grecia, no? Poi dopo in alcuni paesi si declina in modo democratico, in altri paesi no. E io dico, cara grazia che finora in Italia abbiamo avuto il Movimento 5 Stelle, che questa rabbia tutto sommato l'ha indirizzata all'interno dei limiti della Costituzione, anzi, e anche di un atteggiamento pacifista. Allora, in Grecia non è successo così, in Francia c'è Le Pen che è una via di mezzo, c'è i limiti, e credo che qualcosa che assomigli all'alba dorata non ci sarà. Ci sarà qualcosa che assomigli alle Pen, che è... Si è rifugiato in corne, si è rifugiato alla fine, Giglioli, perché pensavo alla fine fosse... E in Italia, come alba dorata, c'è Beppe Grillo. Invece no, perché non è satira questa. 24 mattino. Allora, le 6:48 insieme a Vincino, ad Alessandro Giglioli, qua insomma sapete che al Parlamento un pochino si ride, si scherza, le prime notizie del giorno, ma ovviamente quello che è successo in Sardegna e sta succedendo è un'emergenza davvero difficile. Io voglio salutare e ringraziare il sindaco di Uras, in provincia di Oristano, il sindaco Gerardo Casciu. Sindaco, buongiorno, grazie. Buongiorno a voi. Anche se so che sarà stata una notte, immagino, molto molto difficile. Non è un buongiorno, purtroppo, né una notte, la notte è stata abbastanza tranquilla, pochi interventi. L'acqua è stata clemente, quindi insomma. Ci spieghi, ecco, qual è la situazione anche dal punto di vista purtroppo delle vittime in Sardegna? Per il maltempo c'è stata una vittima ieri, purtroppo, e per il resto diciamo molte persone erano state sollate, sono state prese diciamo da parte di amici, sono andate in casa di amici oppure in casa dei parenti, via discorrendo. Soltanto 20-25 persone sono rimaste, 22 persone per essere precise, sono rimaste nel campo che abbiamo allestito con la protezione civile in palestra all'impianto comunale. Ma ci sono persone disperse oppure sono stati tutti ritrovati? Disperse per il momento non mi risultano, quindi da quel lato lì dovremmo essere ormai tranquilli, insomma. Mm. Senta, si è raccontato di questa bomba d'acqua, ma com'è possibile che di colpo, così nel giro di poche ore? Non è stata una bomba, è stata proprio due bombe insieme, perché noi queste due bombe sono scese da due parti diverse della montagna e hanno in poco tempo riempito i canali che attraversano il paese, che scaricano nel canale delle acque alte, e poi da lì è cominciata tutta la tragedia. Senta, nella Sardegna, in tutta la Sardegna, non solo nel suo comune, il numero di vittime fino a questo momento quant'è? Accertate non glielo saprei dire. Sono in contatto con il territorio qui vicino al mio, diciamo, confinante con Terralba, dove lo stesso c'è un po' di caos. Però per il momento ho sentito anche il sindaco, non si parla di vittime, si parla soltanto di danni materiali. L'ultima questione, sindaco, è quello di cui avete bisogno, cioè qual è la situazione dal punto di vista dell'emergenza? Nel senso... Oggi io c'ho ad Uras, ci sono ancora circa il 70% delle case, soprattutto degli scantinati, in alcune zone del paese che sono ancora piene d'acqua. Allagate, quindi inagibili. E quindi inagibili, quindi automaticamente qui adesso dovremo arrivare con i vigili, faremo lo status della situazione e cominceremo, se non piove, cominceremo con gli autobotti a scaricare un po' di d'acqua. Anche se i vigili del fuoco durante la notte sono intervenuti in diverse situazioni un po' critiche. Perché il discorso è se non abbiamo gli autobotti è inutile prendere l'acqua e scaricarla per strada, perché poi ritorna indietro, insomma. Quindi sarebbe un lavoro inutile. Quindi stiamo aspettando appunto dei mezzi idonei per caricare l'acqua negli autobotti e cominciare a vedere un po' la situazione. Perché abbiamo molte strade ancora allagate, con macchine sommerse e via discorrendo. Beh, davvero tanti in bocca al lupo, ovviamente i soccorsi sono già da ieri I soccorsi sono cominciati già da ieri, sia con l'ente foreste che con il corpo molto attivi, no, ma è chiaro. E ovviamente io, sindaco, per il momento la ringrazio. Nel giornale radio tra pochi minuti ovviamente ci sono gli ultimi aggiornamenti, insomma sarebbero 12 per il momento le vittime accertate in tutta la Sardegna, e ringrazio il sindaco Gerardo Casciu. 12 vittime, sì, fino a questo momento così dicono le agenzie. Ovviamente ci sono anche delle persone disperse, però 12 sono le vittime accertate. Devo controllare adesso, dobbiamo andare con il corpo forestale, con anche questo andiamo a vedere un po' la situazione in Pete Montana, dove proprio c'è stata la prima discesa dell'acqua, perché dalle ultime notizie che so io ci sono molte aziende agricole, pastorali che sono per il momento quasi, non dico isolate, però stanno in brutte situazioni. Quindi andremo a verificarle in mattinata, vediamo. No, ma è chiaro, poi si conterà purtroppo anche i danni dal punto di vista sia economico sia infrastrutturale, questo certamente. No, ma il discorso è che siamo anche qui in Uras, siamo ancora senza linea fissa, senza inter, siamo un po' isolati da quel lato lì, e anche i ripetitori fino a ieri almeno viaggiavano a corrente alternata.

veramente ridicole all'infinito, si presentano, perché questo prevede la legge, si presentano con quelle parrucche, ma adesso sono in crisi, la spending review, gli stipendi che non vanno bene, e allora questi giudici, hanno trovato il Times, fanno gli annunci e si vendono queste parrucche, parrucche che valgono fino a 2.300 euro, il Corriere della Sera ci fa una pagina intera, le parrucche dei giudici inglesi in vendita, mamma mia, ecco i miei 2 eurini per queste parrucche, devo dire, non li metterò a disposizione, vabbè, è tempo di giornale radio, rientriamo subito dopo, parliamo del caso Cancellieri. Mattino. Siamo qua, sono le 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, il caso Cancellieri. La Procura di Torino ha fatto sapere che il Ministro della Giustizia non è indagata, ha trasferito gli atti a Roma per competenza territoriale, eppure il Ministro, per quelle telefonate fatte per informare sulla situazione in carcere di Giulia Ligresti lo scorso agosto, è finita ed è ancora sulla graticola politica. No? Lì rimane, domani si discute la mozione di sfiducia nei suoi confronti presentata dal Movimento 5 Stelle, e l'ago della bilancia politico sta tutto, cari ascoltatori, nel Partito Democratico. Perché? Perché le altre forze, bene o male, sono allineate. C'è chi, come il Movimento 5 Stelle, è per la sfiducia, così la Lega, così SEL, mentre nel centrodestra sia Forza Italia sia il Nuovo Centrodestra sono per la fiducia. E invece nel PD ci sono i problemi, perché se Letta è per mantenere il ministro Cancellieri, e invece Renzi e Renziani hanno detto dovrebbe dimettersi, e così anche Civati. Insomma, a leggere i giornali di oggi, io ne ho letti tanti di retroscena, abbiamo visto la rassegna stampa, si dà quasi per scontata la posizione della Cancellieri, che adesso dice: o oggi il PD mi dà un sostegno certo, convinto, sicuro, oppure sono io pronta a fare un passo indietro, e potrebbe presentarsi addirittura dimissionaria domani. Come andrà a finire? Ne vogliamo parlare con la senatrice Paola Taverna, che è capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. Buongiorno e benvenuta, eccoci qua. Buongiorno a voi, buongiorno a lei. Così come saluto Gianni Dragoni, che è un collega del Sole 24 Ore. Gianni, buongiorno, giornalista del Sole 24 Ore. Tra l'altro è uscito da poco con un ebook per Chiare Lettere dal titolo Ligresti Story, la famiglia prima di tutto. Gianni, vogliamo partire da qui, cioè dall'aspetto giornalistico, perché tanto si è parlato dei rapporti tra la famiglia Ligresti e la famiglia Cancellieri. In questo libro, insomma, che rapporti sono negli anni? Perché molti hanno detto, al di là di tutto, sono rapporti sconvenienti, si può dedurre questo? Sono rapporti, cioè è sorprendente il fatto, noi lo abbiamo appreso solo poche settimane fa, alla fine di ottobre, quando sono state pubblicate le intercettazioni delle telefonate, le 2 telefonate, finora sapevamo, fino a pochi giorni fa, che il Ministro della Giustizia, come Ministro della Giustizia, aveva fatto alla famiglia Ligresti la prima il 17 luglio di quest'estate, quando c'è stata la retata di tutta la famiglia Ligresti, Salvatore, le 2 figlie e alcuni manager del gruppo, e un mese dopo circa, allora la prima per esprimere solidarietà in seguito all'arresto di Salvatore Ligresti, aveva chiamato la compagna di Ligresti, eccetera, senza parlare di altri problemi. Poi si dice: se avete bisogno di me, chiedetemi qualunque cosa, non è giusto, dice la Cancellieri, no? Se posso fare qualcosa, chiedete. E un mese dopo viene contattata da Antonino, il fratello di Salvatore Ligresti, e da quello che poi si intuisce dalle ricostruzioni anche successive, da quello che la Cancellieri dice pochi giorni dopo ai magistrati che la sentono, la ascoltano su queste telefonate, perché i Ligresti sono intercettati, lei dice di aver avuto una telefonata da Antonino Ligresti che parla delle condizioni, appunto, di salute di Giulia Ligresti, che era in difficoltà, problemi di salute, anoressica, in carcere. Insomma, i Ligresti avrebbero, insomma, fatto pressioni, si presume, per ottenere condizioni migliori o la scarcerazione. Ecco, ma appunto, in effetti, Gianni, quello che si racconta, cioè al di là del caso politico, sì, è proprio molti, anche credo, ce lo dirà la senatrice Taverna, al Movimento 5 Stelle, raccontano più l'imbarazzo, non è tanto nella telefonata in sé, si vedrà dal punto di vista penale, ma nel fatto che dei rapporti che ci sono tra le 2 famiglie. Certo. Sono fonti di imbarazzo questi rapporti, perché in fondo... Allora, anche la mia opinione è, diciamo, di sorpresa, e perché è emerso da quello che racconta la Cancellieri, poi anche alcune altre cose che dicono i Ligresti, Salvatore Ligresti ha detto in altre situazioni, cioè intanto un'amicizia, ne parla di amicizia che dura addirittura da decenni. Salvatore Ligresti poi ha detto, non si sa se sia fondato o no, ma ha detto, e lo dicono anche i Ligresti in altre situazioni, che avrebbe, diciamo, fatto pressioni addirittura su Berlusconi per aiutare la Cancellieri nella sua carriera, nell'ultima parte della sua carriera, addirittura quella frase "sei lì perché ti ci ha messo lui", cioè che l'avrebbe potuto aiutare sia quando stava terminando la carriera, il mandato di commissario prefettizio a Bologna nei primi mesi del 2011, sia la frase come se fosse entrata nel governo, nel primo governo, nel governo Monti, diciamo anche per volontà di Berlusconi. Però, a parte questi fatti, è questa amicizia consolidata con una famiglia tra le più potenti, e che è stata tra le più potenti d'Italia, ricchissima, il padrone di Milano, le scandali, aree d'oro. Questo è la famiglia Ligresti, sì. A metà degli anni 80, poi Ligresti, Salvatore, coinvolto nell'epoca di Tangentopoli, finisce in carcere, viene condannato nel primo grande processo di Tangentopoli a 2 anni e 4 mesi insieme a Bettino Craxi. Insomma, questi rapporti sono giudicati sconvenienti da una parte dell'opinione pubblica, anche da una parte dei politici, mi sembra di capire. Che una persona indicata per le istituzioni è stata anche per un po' ipotizzata come un candidato presidente della Repubblica. C'è qualcosa, insomma, una che... famiglia di questo tipo, diciamo, non, insomma, sono rapporti che sorprendono, infatti erano ignoti a tutti. Infatti questa cosa è anche un po' strana, insomma, non sono venuti fuori, diciamo, ultimamente. Io vorrei chiedere alla senatrice Paola Taverna, insomma, visto che di penalmente rilevante non c'è nulla, almeno allo stato dei fatti, perché voi insistete a chiedere le dimissioni del ministro Cancellieri? Di penalmente rilevante non c'è nulla, e omettiamo comunque il fatto che quando è venuta a riferire in Parlamento il ministro non ha relazionato su tutte quelle che erano stati i contatti. Non dimentichiamoci che ci sono poi le ulteriori telefonate fatte dal marito stesso della Cancellieri nei confronti di Antonino Ligresti, e questo già a suo carico potrebbe essere imputabile. Il discorso che sì, ci sono dei rapporti che forse sono inopportuni, e che la politica è in una fase nella quale chiede trasparenza, chiarezza, e che probabilmente in questo momento gli italiani trovano veramente difficile da comprendere, sia queste amicizie che per lunghi anni sono andate avanti e che oggi vedono comunque coinvolta un ministro della giustizia con una famiglia poco onorabile dal punto di vista etico, e fondamentalmente perché non è più accettabile che ci siano dei trattamenti così differenti tra cittadini che non hanno particolari conoscenze e persone che invece si possono permettere il lusso di avere un numero di telefono e di chiamare. Mi scusi, dice poco onorabile perché? Perché c'è stata una condanna, la condanna nei confronti in passato di Salvatore Ligresti. Il giornalista che parlava ha fatto un excursus abbastanza chiaro di quella che la famiglia Ligresti ha rappresentato nella storia d'Italia, e trovarla oggi così vicina, addirittura meritevole delle attenzioni e dell'intervento del ministro di giustizia nei confronti di un singolo membro di questa famiglia, ci lascia sicuramente un po' perplessi. Credo che sia legittimo. Bisogna capire domani che succederà. Tra poco, tra l'altro, ci raggiungerà dopo la pubblicità anche l'onorevole Alessia Mosca del Partito Democratico, per capire, insomma, il pallino in mano effettivamente al Partito Democratico. Per lei è così, senatrice Taverna, nel senso che le posizioni di tutti i partiti sono abbastanza chiari, e l'unica è molto divisa al suo interno è quella del PD. Come sempre, il PD risulta essere molto diviso su più punti, e questo è uno di quelli. Civati sta dicendo che vuole presentare una sua mozione, facciamo presente all'onorevole Civati che già c'è una mozione di sfiducia, che è quella del Movimento 5 Stelle. E forse lo fa per quello, per non voler votare, per dire, se no ci accusano di votare una mozione di un altro partito, che politicamente ci sta come cosa, no? Questo partito, qualora siano condivisibili, dovrebbero cominciare a far parte di un vecchio modo di pensare la politica. Se c'è qualcuno che sta facendo qualcosa di giusto e di condivisibile, tanto vale appoggiarla senza dover necessariamente mettere una bandierina ogni volta che si tenta di fare qualcosa e che non sia solo a vantaggio dell'opinione pubblica. Sembra un pochino che il PD agisca in virtù dell'opinione, se si sposta verso una parte o verso l'altra, faccia quello che crede in virtù di quanto ha detto ai suoi elettori, e noi è quello che stiamo facendo. Sì, crediamo che il ministro Cancellieri dovrebbe fare un passo indietro, così come speravamo lo facesse Alfano al tempo del fatto del Kazaki. Ma voi auspicate che lo faccia prima della mozione? Perché sui giornali è raccontato questo, cioè se il PD oggi non dà un grande sostegno, lo chiederemo all'onorevole Mosca, può darsi che Cancellieri faccia sua sponte un passo indietro. Per voi andrebbe bene così? Noi speriamo che il ministro faccia quello che è più giusto fare. Abbiamo indicato la strada presentando una mozione, non siamo in cerca di vendetta, siamo solamente in cerca di chiarezza e di regolarità all'interno del Parlamento. 24 mattino. Eccoci qua, le 8:37 minuti. Allora, insieme alla senatrice Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, insieme a Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, ci ha raggiunto, la saluto, l'onorevole Alessia Mosca del PD. Buongiorno, eccoci qua. Sono subito da lei, fatemi sentire due ascoltatori. Daniele da Verona, ovviamente stiamo parlando del caso Cancellieri. Daniele, buongiorno, che ne pensa? Sì, buongiorno, ma io sono sbalordito, diciamo, di tutto questo dibattito, perché non riesco a capire come una persona come la Cancellieri, che sicuramente è una donna di, credo, di grandissima esperienza, sì, non capisca che prima, ancora prima di quello che dice la legge, ci sono le famose ragioni di opportunità. Allora, io posso anche capire che abbia come amici queste persone qui, e non voglio giudicare, non sono qui, voglio dire, col dito a giudicare, ma faccio due esempi velocissimi. Il giudice, un giudice, qualunque, codice di procedura civile, procedura penale, sì, si deve astenere quando ci sono ragioni di opportunità. Ma quale, quindi, che ragioni di opportunità avrebbe violato? In questo caso, proprio per il fatto di avere degli amici che la, sì, chiamano con questa confidenza, quando molte altre persone certamente non avrebbero potuto farlo, è già una ragione di opportunità. Se io sono ministro e mi chiama lei, che è un mio anche solo vicino di casa, io le avrei detto: guardi, porti pazienza, che dopo non si dica che la sto aiutando. Sono vicino di casa, quindi. No, un altro esempio velocissimo, sì, un professore in commissione di maturità, quella che adesso si chiama esame di Stato, prima di fare l'esame deve fare una dichiarazione firmata che non ha dato lezioni private agli studenti che andrà ad esaminare. E quindi lei dice avrebbe dovuto, diciamo, rifiutare in qualche modo la chiamata per non dare adito a qualsiasi tipo di anche di strumentalizzazione. La sua posizione è molto chiara, Daniele. Vorrei andare a Piacenza da Filippo. Buongiorno, Filippo. Buongiorno. Io invece chiamo per dire che, come ha spiegato bene Luigi Manconi, sì, questa sulla Cancellieri è una polemica nata non per un senso di trasparenza, ma è basata sulla rivalsa sociale, perché qui si vuol far passare per crimine quella che è la conoscenza personale di persone potenti un tempo e cadute in disgrazia. Adesso non è casuale che a Torino i grillini abbiano fatto un'interpellanza per sapere perché Fassino era in barca con Bazzoli di Banca Intesa. Ma uno sarà libero di scegliersi gli amici, anche perché, tra l'altro, qui c'è un rischio per la democrazia, perché escono con un tempismo incredibile le notizie che la Cancellieri era qualche anno fa alle feste con la famiglia Ligresti. Allora, adesso, visto che è stata Repubblica a pubblicarlo, però per trasparenza mi dicono con chi fa le feste, Scalfa, De Benedetti, il principe. Insomma, lei dice l'amicizia non è ancora un reato in Italia, ecco, dice, uno si sceglie gli amici che vuole. Filippo, la ringrazio, anche lei è stato chiaro, così diamo spazio a tutti. Allora, onorevole Mosca, il tema oggi, leggendo i giornali, è che la patata bollente è in mano al PD. Un ministro, citato in anonimo su Repubblica, viene messo così, virgolettato: se il PD sfiducia, se salva la Cancellieri, si sfiducia in qualche modo Renzi, che sarà molto probabilmente il vostro prossimo segretario. Se invece il PD si schiera contro il ministro, a giocare la faccia è Letta. E come se ne esce? Ma mi sembra che queste ricostruzioni siano tutte delle ricostruzioni che parlano di retroscena che non esistono. Cioè, se rimaniamo ai fatti, i fatti sono che non c'è un illecito, c'è stata sicuramente una posizione inopportuna del ministro Cancellieri, da lei stessa ribadita anche alla Camera, trovo ciniche le ricostruzioni o le posizioni di quanti utilizzano un caso come questo per distrarre l'attenzione rispetto intanto a quello che il ministro stesso sta facendo a detta di tutti, un ministro di tutti, di qualsiasi partito, diciamo della maggioranza, che sta facendo per il Ministero della Giustizia e per la giustizia in Italia, delle cose che erano da anni che non si facevano. Sono stati fatti dei progressi che sono stati anche recentemente esaltati rispetto alle nostri passati ritardi. Io credo che queste siano le cose sulle quali noi dobbiamo concentrare tutta la nostra attenzione. Però mi scusi, allora il più cinico, il primo è Matteo Renzi del vostro stesso partito, perché è lui che dice si deve dimettere. Ma guardi, in realtà devo dire qua non c'è, cioè la pagella del cinismo non è che se la si debba dare, nel senso che trovo che sia utile al paese e a tutti i cittadini che si aspettano risposte diverse da noi la rincorsa adesso a fare chi si mostra di più per essere quello che rispetta e fa rispettare la purezza totale, insomma, diciamo in questi giorni. Ma però io dicevo c'è la patata bollente, perché la divisione, cioè tutti i giornali raccontano che oggi, se il ministro Cancellieri non ha un sostegno forte del partito, e no, su questo non si può dire che il partito sia unito, viste le dichiarazioni dei giorni scorsi, potrebbe dimettersi. Cioè, lei cosa si sente di dire ai renziani, per dire mettetevi l'animo in pace, cambiate ma posizione? Ma una discussione che ci sia nel nostro partito è in dubbio, ma tutti i grandi partiti si dividono nei vari passaggi cruciali. Anche recentissimamente i due grandi partiti americani sono stati attraversati da grandi divisioni, da grandi dibattiti. Il nostro partito è un partito grande e ha tante divisioni al suo interno, tante discussioni, però resta il fatto che il nostro è l'unico partito in questo momento che è unito, perché tutti gli altri si stanno sciogliendo e liquefacendo. Quindi noi stiamo facendo un congresso, abbiamo un dibattito interno, siamo abituati ad avere discussioni, intanto rimaniamo un grande partito unito. Questo sì, su questo tema non molto. Però vorrei Dragoni e poi la senatrice Taverna. Dragoni, ci diceva l'ascoltatore di Piacenza, non si possono processare le amicizie, effettivamente questo si può condividere, per cui perché è nell'occhio del ciclone per queste amicizie con i Ligresti, Anna Maria Cancellieri? Io penso che chi ha un ruolo pubblico nella politica, ma anche nelle autorità indipendenti, ma anche altri ruoli, invece debba rispondere diciamo dal punto di vista dell'opportunità, anche per le sue relazioni, anche per le amicizie. Anche il caso di Fassino, che l'ascoltatore di Piacenza ha citato, lo ritengo un caso quantomeno inopportuno, la commistione tra un sindaco e un importante banchiere. Poi il sindaco Torino, la compagnia di San Paolo, è anche il principale azionista della banca di cui Bazzoli è il presidente, ma questo dico spiegazioni, chiarire, non sto dicendo che è un segno di aver commesso qualcosa di illegale. Nel caso dei Ligresti però, torno a ricordare, quello che Salvatore Ligresti, che oggi ha 81 anni, è stato condannato per corruzione, questo va ricordato, condannato a 2 anni e 4 mesi, insieme a Bettino Craxi, che è il politico diciamo che ha ricevuto il marchio maggiore dal punto di vista della corruzione, tant'è che poi è andato in esilio, insomma è andato all'estero per non andare a finire in carcere. E quindi l'amicizia con una famiglia così potente, così ricca, così, con dei rapporti così tentacolari che adesso non riusciamo a raccontare in breve, ma che si intuiscono, addirittura Ligresti, il presidente dell'ISVAP, l'autorità di controllo sulle assicurazioni, è indagato, accusato di aver favorito Ligresti. I Ligresti, sembra che insomma, poi l'amicizia da Craxi è passata a quella con Berlusconi. Quindi una famiglia potente, una famiglia così pervasiva nella società, e questo diciamo che è un fatto, non è un qualcosa di illecito in sé. No, è chiaro, però è un dato di fatto che fa prendere alcune considerazioni. Per una persona delle istituzioni che debba garantire, anche se c'è un'amicizia che sia maturata, noi non lo sappiamo, in un'epoca in cui questi fatti ancora non erano stati compiuti, però se uno legge la storia di Ligresti sulla misteriosa origine della ricchezza, i rapporti, ha avuto le sue attività, si è incrociata anche con quella di Sindona, ci sono tanti episodi oscuri, misteriosi in questa ricchezza, parte dalla Sicilia via Milano a 30 anni, eccetera, eccetera. Insomma, tutto questo diciamo, mette uno spaccato che non pone a beneficio di questo tipo di relazione. Io, senatrice Taverna, ho sentito l'onorevole Mosca dire sì, telefonate inopportune, ma Ma poi basta col cinismo, a chi si smarca ad essere più cinico degli altri, a trarre le conseguenze ulteriori, Taverna. Ma se mi permette, anche proprio in base a quello che ha detto l'onorevole, noi non stiamo distraendo nessuno, casomai stiamo facendo luce e attirando l'attenzione su fatti che sono oggettivamente importanti. Cioè, il punto non è di chi era amica il ministro, il punto è aver aiutato un'amica avvalendosi della sua posizione istituzionale. Il fatto che poi sussistessero condizioni oggettive per la scarcerazione, ossia che la Ligresti sarebbe comunque stata scarcerata, non vale in alcun modo a giustificare quello che è accaduto. Noi non stiamo accusando il ministro di essere amica della Ligresti, ma di essere intervenuta in virtù di questa amicizia presso i funzionari che ha contattato, e questo fatto costituisce di per sé una forma di indebita influenza su pubblici funzionari da parte di un loro superiore. Allora, però sarebbe un reato, sarebbe un reato, sarebbe indagata se fosse così. Cioè, mi perdoni, non è stata indagata, ma oggettivamente questo è quanto è accaduto. Oppure vogliamo mettere dubbio anche sul fatto che il ministro che abbia fatto telefonate, l'ha detto lei stessa, insomma, questo sì. Però, scusi, che abbia fatto pressioni, che la procura non abbia indagato, decisione della procura, ma oggettivamente io sto esponendo quelli che i fatti che lo stesso ministro ha relazionato in Parlamento, e noi chiediamo e noi crediamo che siano fatti più che sufficienti per mettere in dubbio quella fiducia che un ministro di giustizia dovrebbe avere da parte del Parlamento stesso, se non di tutti i cittadini. Le opportunità non dipendono da ciò che ci fa più comodo, le azioni dipendono da quanto ci viene proposto e da quanto viene fatto da parte degli altri. Allora, io alle 8:49 minuti un ascoltatore e un'ascoltatrice anzi chiede: ma perché la ministra era intercettata? In realtà erano intercettati i Ligresti, no? con cui ha parlato in questo caso il ministro Anna Maria Cancellieri. E poi, non so, com'è che la Cancellieri si deve dimettere e non è nemmeno indagata mentre Berlusconi è ancora lì? Ci chiede un ascoltatore. È che io di fronte a questo tipo di domanda non lo so, alzo le mani, caro ascoltatore, non lo so, cosa vuole che le dica? Sono un po' misteri, dibattiti anche dell'Italia, però il dato di fatto effettivamente e oggettivamente è questo. Onorevole Mosca, però io insisto su questo tema, è vero, lei dice noi siamo un partito che stiamo facendo un grande dibattito, sì, volano magari accuse, Renzi, D'Alema, però ci sta in un dibattito per un partito che punta ad avere un nuovo segretario, un partito di varie anime, eccetera. Però su questo tema specifico, riconoscerà anche lei, c'è una forte spaccatura all'interno del Partito Democratico, cioè sulla questione si dimetta oppure non si dimetta, e qui nel giro di 24 ore verranno i nodi pettine, cioè o c'è una ricomposizione oppure qualcosa succederà o no? Sì, ma ogni volta che è successa una discussione al nostro interno, nel nostro partito, veniva dipinta su tutti i media, veniva raccontata come la grande spaccatura, il momento in cui sarebbero venuti i nodi al pettine, e siamo ancora qui e stiamo continuando a fare la nostra vita di partito, dialogando, dibattendo e anche scontrandoci. Cioè c'è una enfasi in tutte le nostre divisioni, anche in un momento in cui, ribadisco, gli altri partiti stanno effettivamente arrivando a delle scissioni molto dure, quello che emerge è solo la spaccatura, sembra che noi domani ci stiamo, ma è dentro la dinamica di un partito democratico come siamo, è normale che ci siano delle posizioni. Però domani c'è un voto, c'è un voto, e stasera, come un grande partito che si rispetti, stasera avremo l'assemblea nella quale verrà decisa qual è la nostra posizione. Perfetto. Questo è le chiedo questo: un grande partito che discute, nel momento in cui stasera verrà decisa una posizione, immagino a maggioranza, poi lei si aspetta che qualunque sia questa posizione tutti la rispettino? Ma io penso proprio che debba essere così, io sono convinta che in un partito per essere tale ci debba essere una disciplina, altrimenti non sta insieme nessuno. Quindi se poi ci saranno casi isolati di presa di distanza, vedremo, ma diciamo, cioè, uno non si attiene alla linea del partito, è già successo, vedremo quali saranno le conseguenze. Io mi aspetto perché altrimenti non regge nessuno nessuna possibilità di una vita democratica del paese, non solo del nostro partito, il fatto che ci siano delle regole all'interno per far funzionare i partiti e queste regole vengano rispettate, cioè se decide una posizione, quella deve essere per tutti. Senatrice Taverna, si parla anche di spaccature all'interno del Movimento 5 Stelle, l'avrà vista anche lei i giornali, anche se magari adesso mi dirà che i giornali raccontano tutte fregnacce, però insomma si parla di possibili divisioni, di rese dei conti, per la verità all'interno del Movimento 5 Stelle ogni tanto torna questa questione e dopo il V-Day che ci sarà, non so quando, ma credo a dicembre, di possibili scissioni anche all'interno del Movimento 5 Stelle, quindi siete uniti ma per finta? Diciamo che questo periodo mi ha insegnato a non fare di tutto un erba un fascio, quindi non dico che i giornali raccontano menzogne, ma che ci sono giornalisti e giornalisti. Ieri abbiamo avuto una congiunta dove si è parlato della proposta della legge elettorale da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle, non si è parlato di divisioni, adesso ciò che accadrà fra 15 giorni circa dopo il Budday non mi è data a sapere, però mi lasci l'opportunità anche in virtù della telefonata fatta dal suo ascoltatore di dire che sì, è vero, si sta parlando del caso Cancellieri e qualche volta si dimentica che sono ormai, giusto ieri ho fatto l'intervento in Senato, 109 giorni che è stato condannato definitivamente il signor Berlusconi, sono 45 giorni dalla dichiarazione della giunta delle elezioni, noi è dal 5 novembre che chiediamo che venga discussa in aula la relazione della giunta per le elezioni, abbiamo questa data fantomatica del 27 che doveva seguire l'approvazione della legge di stabilità, ma purtroppo in quinta commissione bilancio i lavori vanno molto a rilento con questi 3.000 emendamenti presentati. No, interromperemo momentaneamente quella che è l'approvazione della legge, serve se no un'ora in aula per leggere una relazione della giunta delle elezioni, quindi no, non slitterà, speravamo che anticipasse, considerando che sono quasi 2 settimane che noi non andiamo in aula al Senato, quindi sì, comprendo lo sconforto e la sorpresa dell'ascoltatore. Però sì, che vedremo poi, questa è un'altra vicenda. Gianni Dragoni, per concludere, io voglio ricordare ancora il tuo ebook per chiare lettere, L'Igresti Story, è un po' un paradigma, Gianni, del rapporto tra potere anche economico e finanziario e politica, questa storia dei Ligresti. È un esempio da manuale, certo un brutto esempio, ma spiega come hanno funzionato e come continuano a funzionare, se vediamo anche appunto queste telefonate recenti tra un ministro e la famiglia Ligresti, i rapporti tra il potere economico e finanziario e le istituzioni, non solo la politica, ma proprio le istituzioni dello Stato. Credo che sia soprattutto questo grande potere economico finanziario di un capitalismo poi che è protagonista del declino, molti di questi condottieri, super manager, ricordiamo che tutta la famiglia Ligresti, quella che adesso, che poi è finita in carcere, diciamo in questa inchiesta, poi Giulia è uscita, ma erano tutti ai vertici delle aziende di famiglia, aziende che coinvolgevano decine di migliaia di risparmiatori perché quotate in borsa, e in più c'erano i clienti delle società di assicurazione, i dipendenti, però la famiglia, pur avendo una quota minoritaria attraverso le scatole cinesi e tutti i vari marchingegni, si distribuiva compensi altissimi, perché ricordiamo la famiglia Ligresti è indagata, il motivo per cui sono stati arrestati, per aver spolpato per un falso in bilancio, un buco di quasi non meno di 538 milioni di euro, dicono i giudici di Torino, la procura e il GIP, quindi dietro c'è un grande scandalo finanziario a danno della collettività. Un'accusa che poi ovviamente seguirà il suo corso. Io mi fermo qui, vi ringrazio da Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, la senatrice Paola Taverna, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Alessia Mosca del Partito Democratico, che questa sera si riunirà per decidere la linea sul caso Cancellieri. Ci fermiamo qui, l'appuntamento è rinnovato con tutti a domattina alle 6:30 puntuali. 24 mattino.